Nice jam, man. Nice jam. Bravissimo. Bien, bravo, bravissimo. È lo mejor. Muchas gracias, zapadita, è lo mejor. Bravissimo, grazie, grazie. Todo tiene que ver con los pájaros. Grazie, bravissimo. Pájaros. E se lo sono en el aire. Pizzo. Gargale, garganta caccara. Bravissimo. Ma ci grazie, grazie. Andalù come cicone. Grazie, grazie, grazie. Bravissimo. Se verdi Julio. Todo bien, guacho. Thank you. Thank you. Woody, you wanna jump? Or something. another server. Maybe there are some more people there. I'm gonna check for another server, man. Right?